Allora, questo giudizio è un'agenzia di rating, ti sta dicendo non vali abbastanza, ti danno una B, B2, non so, 2, B, una A al massimo. Ok. La cosa interessante è che cosa ne segue questo giudizio, questa frase? Non ti fa stare bene, emozione negativa. Bene. E poi cosa succede? Che appunto non ti senti bene, e chi è che ha in mano il potere in quel momento? Questa roba. C'è l'agenzia di rating, ce l'ha. Quindi tu non sei libera a dire, ah sì, mi dice così. Beh, allora. No, io subisco questa pressione. Io credo a questa frase, io non valgo. Le cose possono essere diverse, ma prendo la più semplice di tutte. Mettiamo che dice non valgo perché ho provato questo, non ha funzionato, c'è una bella serie di cose per cui non ha funzionato. Per esempio, io non sono intelligente, come fai a dirlo? Perché sono stato bocciato qua, sono stato bocciato là, sono da tutte le parti. C'è una frase che io non sono intelligente, abbastanza, è più facile. Ecco. Che cos'è che proprio, non vi, proprio viene cancellato completamente. E che cosa succede? Notate, la vita è un flusso, fa così, non è mai così. Quando io dico sono poco intelligente, sto facendo una fotografia, viene via il film, no? Quindi sto isolando un frammento di tutto il mio essere, sto facendo una fotografia su quel frammento, faccio anatomia, prendo un pezzo. Ma sappiamo che l'anatomia si fa sui cadaveri, non è vivente questo. In realtà c'è una serie di comportamenti che io non prendo in considerazione, né miei né di altri. Io do un'etichetta, faccio una foto, è come se a un certo punto tu dessi un pugno a lei. Faccio la foto su questo e la porto al giudice, guarda. Sì, ma se io faccio il film prima, vedo che lei ti ha puntato un mitra prima, per esempio. E allora il pugno è molto gentile. In fondo hai cercato di non proprio distruggerla, non gli hai dato sul naso, gli hai dato in un posto che gli ha fatto. Quindi dipende. Quindi se io gli sono un pezzetto. Allora la vita è flusso, ma noi attraverso il linguaggio facilmente la codifichiamo in immagini fisse. Tutte le volte che di un flusso facciamo una foto, stiamo facendo un'operazione di impoverimento enorme della realtà, enorme. Dire a un bambino sei incapace, è quasi criminale, perché ne fa un incapace. Va bene. Ma mettiamo che in effetti io, quando mi dico così, ho delle prove, ho delle evidenze. Che cos'è che viene cancellato? Mettiamo che oggi se uno facesse una foto lì, effettivamente io sono imbranato, non riesco a fare le cose, mi metto a studiare, mettiamo che devo fare un esame, non ci riesco, faccio, sono incapace. Non è proprio così. Effettivamente c'è un fondo di verità. Cos'è che viene occultato? E uno il contesto, ma ancora prima, la domanda fondamentale, guardate cosa viene negato. Tutto questo pezzo, cioè che cosa io faccio, che cosa ho fatto per rendermi incapace? Perché effettivamente può darsi che io ho sviluppato una buona dose di capacità. Per esempio, posso essere incapace ad apprendere una lingua, posso essere incapace a sciare. Bravo, complimenti, hai lavorato bene. Come hai fatto a renderti così bene incapace? Ce n'è voluto, ci hai messo del lavoro. Di solito questo pezzo è occultato. Quindi la domanda vera è come hai fatto a renderti incapace? Come hai fatto tu a renderti poco sveglio? Cioè recuperi tutto il comportamento, tutte le azioni, tutte le emozioni che ci hai messo prima di scattare la foto. Questo è un enorme recupero di pezzi di realtà che altrimenti vanno a finire tutti nell'ombra, cioè nell'ombra intendo che non sei cosciente di quelle cose lì. Allora ecco che ti senti dominato. perché tu fai un etichettamento su di te, a parte che... Ma comunque questo etichettamento, se anche avesse una base possibile nella realtà, cioè un fondo di vero, ma viene meno tutto il lavoro che hai fatto per costruirla questa realtà. Bene. Questo che spesso crediamo sia un problema solo delle persone disturbate, ma non è così, è il modo di funzionare del pensiero umano. Quello ordinario funziona così, tant'è vero che c'è voluto l'idealismo tedesco per rivelarlo, eh? Prima si pensava, l'idealismo si contrappone al realismo, cioè effettivamente sei un cretino, ecco te lo dimostro, guarda non riesci a fare punteggi a scuola, non riesci a fare questo, non sei insufficiente. L'idealismo tedesco di Fichte cosa dice? Comincia a dire, momento, aspetta. L'io agisce nel mondo, costruisce delle cose, si dimentica di averle fatte lui e poi si sente dominato dalle cose che lui ha fatto, lui. Fichte parla dell'io collettivo e funziona benissimo. Noi oggi cosa ci dicono? I mercati ce lo chiedono. La finanza ci chiede questo, dobbiamo recuperare fiducia dei mercati. E i mercati? Mercatus sive natura. Piccolo dettaglio, la natura non l'abbiamo costruita noi, gli alberi non li ha fatti nessuno, il mercato sì, l'abbiamo costruito noi, con le nostre mani. Col nostro modo di pensare abbiamo costruito quel tipo di mercato lì, che oggi ci domina. Lo stesso vale nella nostra vita privata, personale. Noi costruiamo la nostra realtà, ci dimentichiamo di averla costruita noi o di continuare a costruirla noi, dopodiché ci sentiamo dominati da questo aspetto di non io, che non sono io. Quindi io sono dominato da qualcosa che sembra esterno a me. Vi faccio esempi più concreti della vita quotidiana. Io mi sento escluso dagli altri. La domanda è, come crei la tua esclusione? Cioè recuperando l'aspetto attivo. In quel modo sei passivo e impotente. Nell'altro modo ti dispiacerà un po' perché fai la figura del fesso. Per anni ti sei lamentato di essere escluso, e scoprire che l'hai costruito tu non ti farà un ben piacere all'inizio, no? Quindi guardate, non si fa un passo finché siamo attaccati alla nostra immagine di persone intelligenti, non c'è niente da fare. Cioè dobbiamo ammettere che abbiamo un pensiero che fondamentalmente è ottuso e quindi crea situazioni imbarazzanti di riconoscere, no? Ecco. Quell'altro, quella persona è così aggressivo nei miei confronti, lo patisco, come se dipendesse dall'altro. Ma quando in qua? Certo, se ti ha legato in una seggiola, ti mette in un chiuso, è vero. Ma intanto, che fesso sei andare a casa sua, se lo conoscevi, ecco, non ci dovevi andare. Insomma, quindi come tu collabori a creare proprio quello che dopo ti domina? Quindi recuperare il lato attivo è centrale, quello vuol dire finalmente essere liberi dalla dipendenza interiore. Ma io mi sono innamorato di quell'uomo lì, o di quella donna lì, e ne dipendo, effettivamente è vero. Come hai generato quello? Ma sono cose che accadono. Quanto ingenuo sei! Possibile che ti capitano sempre a te le stesse cose? Guardate, una persona, chi ha esperienza clinica, dopo un po' si annoia da morire, non c'è più niente da scoprire. Non c'è una volta che uno non ti porti la storia che si è innamorato di quella e sta malissimo. Dopo che gli chiedi le relazioni prima erano tutte uguali, poi vai ancora prima, c'è la relazione con la mamma, è fatta così. Ma insomma, ma qualcuno che una volta tanto generi qualcosa di nuovo, che c'ha una madre buona come Maria e improvvisamente diventa dipendente da una donna, allora quello uno comincia a divertirsi. Ma lì è tutto prevedibile, è supermercato. Allora, com'è che creiamo la dipendenza? Ma non mica la creiamo in un giorno, ci vuole altro per creare una dipendenza. Ti ci devi impegnare tanto, eh? Bisogna avere questa capacità, guarda. Se non ce l'hai, di concentrarti su un oggetto specifico, hai poche speranze di crearti veramente una dipendenza. Quindi devi avere una concentrazione, capacità di ritornare sulle stesse cose più e più volte, sulle stesse immagini, fino a che ti ci attacchi così tanto che diventa la tua realtà. E è un lavoro che hai fatto, non è che ti innamori così, ci vuole altro. Per innamorarsi, e in quel modo, bisogna aver fatto tutto un lavoro preziosissimo, peraltro, di concentrazione, di attenzione, di dedizione. Ecco, se voi mettete quella dedizione, anziché in queste minchiate, le mettete al bene, cambiate in un quarto, in un mese. Perché la dedizione al male c'è stata, ma forte. Ecco, la dedizione al male che dipende dall'ignoranza. Noi ci attacchiamo regolarmente, spessissimo, a persone che sono distruttive per noi. Avete mai sentito parlare di un amico o un'amica che dice... Questo lo amo tantissimo, per un disastro. Quest'altro è così, però non mi tira. Mai? No? Allora dice, è sfortuna. No, ragazzi, è frutto di lavoro. Dedizione al vero lavoro uno deve fare. Deve prendere le immagini, quello lì ci deve tornare sopra, quell'altra deve... Allora su quello deve andare a vedere certi particolari, ritornare più e più volte, deve fare un lavoro da pubblicitario. Da pubblicitario non hanno inventato niente. Basta che... i pubblicitari hanno studiato come funzionano gli esseri umani, è semplicissimo. Quando hanno qualcosa che si crea di negativo, ci si impegnano da morire per farlo diventare grande. Ecco, certo, questo le amebe non lo fanno, vivono meglio, perché l'ameba, se si avvicina a una persona o a un'altra amebina, e sente che c'è qualcosa, fa semplicemente così. L'essere umano comincia a indagare quanto dopo ci casca dentro come un pollo. Ecco, allora, questo pezzo qua è il pezzo mancante, e Fichte direbbe, è il non io che lì capisce che l'ha costruito lui. Abbiamo costruito i mercati, abbiamo costruito la finanza, ci siamo noi che ci abbiamo messo monti, non ci è andato da solo. L'unità ha fatto una pagina grossa così, liberazione. Quando hanno eletto Monti, cioè voglio dire, l'unità è nata da Gramsci, cioè voglio dire, ma allora uno non può dire che la sinistra non si crea il suo mondo, perché più di così...